Il gastronauta di Davide Paolini. Nella cucina del gran ristorante, che profumino davvero invitante. C'è lasagnette, arrosti supplim, c'è un cuoco piccolo, alto così, è un cuoco buffo, particolare. Bene, se abbiamo sentito una voce molto giovanile, e oggi è il momento degli chef, anche dei bambini, e dei bambini poi capirete perché, anche dal personaggio che ho ora in linea. Ma sicuramente gli chef sono in questo momento al centro dell'attenzione. Direi che dopo i calciatori e i tronisti, oggi ci sono gli chef, se ne parla ovunque li troviamo, testimonial nelle manifestazioni, insomma sono diventati dei veri e propri personaggi, ma nella loro cucina lo sono sempre stati. Ma uno dei dubbi così che vengono a molti: ma chef si nasce o si diventa, o meglio, dove si diventa? Nelle cucine degli altri grandi chef, oppure magari facendo delle scuole particolari o studiando? Ecco, questo è un grande problema che molti si pongono. Io ricevo moltissime mail o diciamo delle chiamate che mi chiedono: oh, mio figlio cosa mi consiglia? Bene, io credo di essere la persona meno indicata per consigliare, ma molte volte mi trovo veramente in difficoltà anche con degli amici, con degli figli degli amici. E allora oggi parleremo proprio di questo argomento, quindi intervenite, cari radioascoltatori, 800 24 0024 349 238 6666. Io comincio a parlarne con Bruno Barbieri. Buongiorno Bruno. Buongiorno, ciao a tutti. Bella domandona questa, chef Sinaso. Ma tu hai già risposto, per questo ti chiamo, ti ho sentito in una trasmissione, tu hai detto chef si nasce. Sì, sono estremamente convinto di questo. Poi tutti quanti noi sappiamo cucinare, fare un piatto di spaghetti, fare una besciamella, fare una salsa, chi meglio, chi più, chi meno. Però per fare questo mestiere, farlo da professionisti, sceglierlo come storia della propria vita, quindi fatta di un sacco di cose, comunque anche di guadagni, anche di proprio di vita personale, di lavoro, è un'altra storia, è un'altra cosa. Dentro le cucine ci stanno impegni, sacrifici, voglia di mettersi in discussione tutti i giorni, cioè non è una cosa così semplice. Sai, oggi la gente vede questi chef in televisione benissimo, però dietro a questa cosa ci sono anni di studio, c'è una gavetta, c'è una grande gavetta. Non è che si arriva in televisione solo perché sai mettere un pomodoro su un piatto, c'è una bella, ecco, una Bruno, bella Bruno, tu ora stai così facendo da giudice a questa, diciamo, master chef dei bambini. Ma ecco, tra di loro hai già intravisto qualcuno che ha le caratteristiche? C'è sicuramente qualche ragazzo che ha un... Io mi sono rivisto molto, devo dire, come persona in questi ragazzini. Cioè io alla loro età avevo già questa voglia di fare, questa voglia. Io credo che sia innanzitutto MasterChef Junior, lo dico così al volo, un programma molto educativo, perché comunque al di là della storia della competizione, ma la competizione c'è sempre in tutte le cose, anche nei ragazzini, nelle partite di calcio, nello sci, nel tennis, queste cose. MasterChef è educativo perché? Perché racconta anche ai ragazzi e fa scoprire ai ragazzi anche prodotti, imparare a mangiare le verdure, insomma tutte queste cose, fondamentalmente anche un po' giocando. Ecco, tu non hai avuto MasterChef dei bambini, però hai fatto una lunga gavetta. A chi devi dire grazie di essere diventato un bravo chef? Sicuramente a chef che mi hanno dato una mano, che mi hanno insegnato questo mestiere, perché è chiaro che uno un po' di talento ce lo deve avere, logicamente, però voglio dire, devi avere la fortuna di lavorare con grandi chef, da Igor Scorelli, da Gianfranco Missani, da Paul Bocuse, tutte queste cose, devi avere la fortuna tante volte di essere al posto giusto, nel momento giusto, perché insomma capire quali sono le strade in questo mestiere da scegliere, perché sai, il cuoco non è solo fare il cuoco, deve essere anche un bravo pasticcere, deve essere un bravo ricercatore di materie prime, perché sai, non è che tu prendi il telefono la mattina e dici oggi voglio prendere una cassa di pomodorini pizzatelli, devi andarteli a cercare, devi andare a scovare, a scoprirli, quindi c'è tutta una serie di cose, un legame veramente con il territorio, con le città, con i paesi, con le campagne, con i contadini, con i norcini, che sono veramente veramente incredibili. Ecco, quindi ti volevo chiedere questo. Oggi diciamo il GOT degli chef italiani, non tutti, ma sono passati dalle cucine di importanti chef stranieri, specialmente francesi. Tu pensi che stia cambiando il vento, che anche le cucine oggi di questi chef italiani possono essere una scuola importante per il futuro? Sono sicuramente una grande scuola importante. Io devo dire questo, e vorrei dirlo nel tuo programma, i ragazzi che si apprestano a fare questo mestiere, a scegliere di fare questo mestiere, l'importante è che comunque un cuoco si forma, diciamo, dai 14-15 anni, arrivare fino ai 35-37 anni. I primi anni di studio bisogna farli in Italia, perché qua c'è la grande materia prima, qua c'è il prodotto, qua c'è la scuola. Poi è chiaro che la Francia ti insegna un rigore gastronomico che serve per gestire le cucine, e quindi voglio dire, però è in Italia che parte tutto, perché qui c'è davvero la grande materia prima. Uno deve conoscere qua i tartufi, non puoi andare a cercare a Londra, in Australia o a New York, devi cercare in Italia, dico i tartufi perché è una cosa certo, che conosciamo tutti. Però ecco, è qui che ci si forma, è qui che si impara. Oggi ci sono grandi ristoranti italiani, Crippa, Cracco e via discorrendo, che comunque fanno scuola, che comunque insegnano, che comunque raccontano a questi giovani come si deve intraprendere. Poi è chiaro che serve un po' di talento. Grazie, ma devo leggerti un SMS. Bruno, cosa dici? Nessuno nasce niente, tantomeno chef. Mi deludi se fai questi ragionamenti. Vabbè, è evidente che ci sono pareri molto molto contrastanti. Ascoltare appunto la canzone dei Cuoco Pasticcione, appunto tanti anni fa, lo Zecchino d'Oro, mi viene in mente Gusteau, il celebre cuoco di Ratatouille, che diceva invece che tutti possono fare i cuochi, tutti possono fare gli chef. Ma sentiamo Vito da Trieste. Buongiorno Vito. Ah, buongiorno signor Davide Paolini, io ascolto sempre ogni sabato la vostra trasmissione. Grazie, prego. E praticamente io sono convinto che no, chef non si nasce, lo si diventa. Secondo me però la passione per la cucina è una cosa che si prende, come uno che per esperto di piace la matematica o l'ingegneria, o è una passione che io avevo 5 anni, 6 anni, guardavo la mamma come cucinava e ho sempre guardato tutto quello che lei faceva. Io oggi ho 58 anni, io faccio un po' di tutto. Io secondo me l'unica cosa che non so fare, e non sono bravo per fare dolci perché non mi piacciono, però per quanto riguarda la cucina, carne, pesce, insomma, pasta. Mi scusi, la sua maestra Vito è stata la madre, è così, sì, osservando la madre, sì, lei è diventato cuoco, sì, mi sembra di capire, guardi, questo. Io ho sfidato anche degli chef, sa? Io sono andato varie volte in Sardegna in vacanza, ho sfidato anche i chef, perché bene, io sono convinto di quello che faccio. Addirittura io negli ultimi anni faccio anche tantissimi sottaceti, perché io sono... Bene, grazie Vito, la fermo perché sennò sia dove andiamo. Io la ringrazio del suo intervento, grazie. Abbiamo degli chef in linea, magari riorganizziamo alla fine della trasmissione una nuova sfida. Bene, abbiamo sentito Barbieri che dice che chef si nasce. Io ho con noi Luciano Tona, che è il direttore didattico di Alma, direi una vera cantera tipo quella del Barcellona nel calcio, insomma un vero vivaio che lui alleva. Buongiorno Luciano. Buongiorno, buongiorno. Luciano, ma bisogna, per creare uno chef ci vuole tanto, non è che dalla mattina alla sera così si diventa chef. Ma esiste una stagione per tutte le cose, così per tutte le attività. Io credo che anche un pittore, un ingegnere, ingegnere, un architetto lo divenga col tempo, un architetto di qualità e di esperienza. Quindi anche per i cuochi esistono le stagioni del conoscere, le stagioni del pensare, le stagioni del mettere in pratica. E io le definisco un po' così: dai 20 ai 30 anni si va alla ricerca di ciò che offre la gastronomia, dai 30 ai 40 si matura come potrebbe essere il progetto personale, e dai 40 in poi si crea e si costruisce il vero personaggio, che è il cuoco in cucina. Questa è un po', parafrasando un po' tutte le attività. Beh, io credo che questa sia veramente, così come tu hai detto, per molti che sono in ascolto, che vogliono fare i cuochi e poi gli chef, sia importante quello che hai detto. Rimani con noi, Luciano, perché torneremo a parlare sicuramente di questo. Umberto da Firenze, un altro radioascoltatore. Buongiorno Umberto. Buongiorno, salve Paolini. Colgo l'occasione per salutare anche appunto Luciano, che tra parentesi ho avuto modo di conoscere qualche tempo fa, in quanto appunto la multinazionale per cui io lavoro aveva organizzato appunto uno stage presso Alma, di cui lui chiaramente è uno dei rappresentanti, se non a quanto mi pare ricordare il direttore. Andiamo alla domanda. Allora, niente, io volevo dire che a mio modesto giudizio, per la professione che svolgo, che è quella di consulente, vedo molta improvvisazione all'interno delle cucine, ovvero sia, insomma, cioè persone che hanno molta poca preparazione, seppur animate da passione, ma questa passione a mio modesto giudizio va assolutamente coltivata per poi fare una professione e per dar da mangiare, insomma, e per far star bene le persone, vada coltivata assolutamente in delle scuole tipo Alma, per dire. Bene, la ringrazio Umberto, ricordo numero verde 800 24 00 24. Leggo un sms che dice: fermare le chiamate è una brutta abitudine. Ma noi non fermiamo nessuna chiamata, caro radioascoltatore. Il problema è che quando ne arrivano tante in un colpo, sicuramente non possiamo mandarle tutte in onda, perché di solito ci sono 5, 6, 7 telefonate, c'è una centralinista, è chiaro che ci sono dei problemi. Ma continuiamo con gli ospiti, perché abbiamo con noi ora Davide Oldani, bene, molto conosciuto anche lui, e voglio fare una premessa. Io ho ascoltato una lezione fatta da Davide Oldani al corso di manager della ristorazione del Sole 24 Ore, e mi ha molto colpito la selezione che fa Davide Oldani, perché Davide Oldani comincia a far andare nella sua cucina dei giovanissimi della scuola Carlo Porta, nel tempo li fa ambientare e poi, se vale la pena, li fa entrare nella sua cucina. Buongiorno Davide. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Davide, ecco, buongiorno. E questo tuo sistema, Davide, appunto di allevare, anche sì, tu con la tua cantera, perché tu hai due chef sparsi per il mondo da due grandissimi, maestri della cucina in Francia. Sì. Ecco, deriva dal fatto che tu hai avuto la stessa formazione. No, deriva dal fatto del voler impostare il mio mestiere in quanto a squadra, no? Credo che sia la cosa più importante capire che la ristorazione non è il gioco singolo, il lavoro singolo, ma è il gioco di squadra. Per poter far sì che tutto funzioni devi avere tutti i reparti coperti e tutti i reparti ben precisi, ben costruiti. Per fare questo devi ragionare, devi essere più altruista, devi essere disposto a dividere i successi, a dividere tutto quello che di buono viene nel ristorante, ed è per questo che l'impostazione data al mio ristorante è questa. Credo che comunque cuoco, allora chef si diventa, perché naturalmente chef vuol dire capo, cuoco lo si può nascere con un palato molto delicato, perché da bambino tutti quanti abbiamo un palato molto molto vergine e pronto a recepire qualsiasi cosa, e lo affini col tempo, affinandolo col tempo diventi cuoco, poi chef. Bene, sentiamo Marco da Bergamo, radioascoltatore. Buongiorno Marco. No, scusi, sono la moglie di Marco. Ah, bene, prego, prego signora, parli lei allora. Ecco, volevo solo dire che io guardo puntualmente MasterChef e tanti programmi di cucina con mia figlia di 7 anni, e volevo quindi dire che adesso la cucina ha anche una valenza formativa, perché grazie a questi programmi io, per esempio, ho uno spunto educativo, perché faccio vedere a mia figlia la figura comunque dello chef, dell'insegnante, chi deve ricepire, e poi posso anche dire la differenza tra la mia epoca e adesso mia figlia. Diciamo che io con mia figlia cucino, ai tempi la cucina era un presidio esclusivo di mia mamma. Bene, grazie signora. Sentiamo, guardi, abbiamo un grande maestro, un grande insegnante che è Luciano Tona. Cosa ne pensa, se sono educativi questi programmi? Luciano, non essere diplomatico però. Io non sono mai diplomatico, lo sai bene Davide. Che penso, dico sempre quello che penso e magari mi costa poi sulla pelle, però sicuramente la scuola è forse l'esempio della scuola, è ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, dove io faccio direttore didattico, quindi mi occupo esattamente della formazione. Vedere un programma dove la formazione non è quella corretta di una professione come quella della cucina, perché ribadisco quello che ho già detto altre volte, nei programmi televisivi non si percepisce la formazione, si percepisce il progetto per cui nasce un programma, che è un programma ludico, di divertimento, e quindi tutto il contesto che viene fatto per divertire, non per insegnare. Insegnare è un'altra cosa, insegnare bisogna stare a contatto con le persone, essere rigorosi con se stessi e con loro, dare veramente forma a quello che è il futuro della professione nel migliore dei modi. E qui riprendo anche il valore della scuola. La scuola oggi dovrebbe diventare veramente il punto di riferimento della grande formazione delle giovani leve di oggi, e spesso nascono anche scuole con poco spessore e poco valore. Un percorso, non puoi fare dei percorsi troppo brevi di insegnamento, ci vogliono percorsi lunghi, come dicevamo prima. È necessario un periodo che ti costruisca nella struttura. E la bellezza, se vuoi, del comprendere il valore della scuola dove insegno io, l'ha proprio detta Davide, l'ha detta Sadler l'ultima volta che è venuto, che chi frequenta ALMA salta via 10 anni di apprendistato nella ristorazione, perché la formazione che facciamo è una formazione completa, importante. Certo. Grazie. Certo. Quindi questo è il grande valore. Grazie Luciano. Davide Oldani, tu sei stato nelle cucine di grandi chef, perché credo che tu abbia veramente spiccato il volo. Allora, sei stato da Marchesi in Italia, sei stato in Francia da Ducasse e da Roux, mi sembra, a Londra. Ecco, sì. Secondo te oggi i grandi maestri sono anche in Italia oppure bisogna sempre andare all'estero? Sì, assolutamente sì, più che grandi maestri. Tu Davide ti ricordi quando ci incontravamo nelle cucine di Marchesi 25 anni fa, ahimè, e c'era all'epoca Marchesi in Italia, poi forse Paracucchi, poi ricordo Santin, e poi dopo c'erano tutte persone che si davano da fare per poter crescere. In Francia non potevi contare, insomma c'erano centinaia di grandi cuochi. Credo che adesso, dopo 25 anni, l'Italia abbia sicuramente lavorato e seminato nella maniera corretta, in primis con Marchesi, che insomma quello che ha fatto è alla luce del sole e riconosciuto da tutti. Lo sentiremo fra poco. Con questa semina che ha fatto, possiamo dire che adesso c'è grande fermento, grande professionalità, grande possibilità di scelta anche da parte del cliente. Ognuno di questi cuochi, che secondo me ieri proprio ne parlavo nell'evento che sta facendo a Milano Cibo a Regola d'Arte, che una volta erano 3, 25 anni fa io ne avevo 3, e adesso sono tanti. Puoi stare 10 minuti a raccontare nomi su nomi di personaggi della cucina che si stanno esprimendo al massimo livelli e soprattutto riconosciuti anche fuori dall'Italia. Quindi vedi che il passaggio c'è stato dalle tue prime degustazioni da Marchesi ai miei primi lavori da comì in cucina da Marchesi ad oggi. Grazie Davide Oldani. Sentiamo Bruno da Napoli, il radioascoltatore. Buongiorno Bruno. Pronto, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Sì. Mi dica. Volevo fare un saluto, ci sta ascoltando. Allora, un saluto a tutte le ragazze del Bartabacchi Rendezvous. No, guardi, mi scusi Bruno, ma non è che possiamo usare questa radio come quando si fanno i compleanni, si mandano gli auguri. La ringrazio, grazie del suo intervento. Sentiamo Giuseppe dalla provincia di Macerata. Buongiorno Davide, volevo dire, io sono 23 anni che faccio il macellaio, volevo dire che in fondo si nasce, perché tutte le signore che venivano da me a comprare la carne mi hanno insegnato, no? Che quel pezzo di carne e quest'altro si mettono in quel modo, no? Poi dopo, quando è venuta a mancare queste persone che non avevano l'insegnamento gli era stato dato dalle loro mamme, tramandato, poi dopo piano piano, ecco, se uno ha voglia e caparbietà ed anche questa resistenza a fare dei prodotti come Dio comanda, si può anche diventare dei grandi piccoli chef, però anche grandi nel loro piccolo campo, come io vendo la mia carne. Bene, sì, e ho scoperto chi sei dalla tua voce, sei Peppe Cotto, quindi sì, un grande macellaio. Ti ringrazio di essere intervenuto. Bene, sentiamo Maurizio da Roma. Buongiorno, volevo smentire quello che è intervenuto, il fatto che si nasce chef, sì, quel luminare. Guarda, io stavo alla scuola alberghiera di Cotiglia, provincia di Rieti, e facevo sala come corso, e nei primi giorni degli esami lo chef, che aveva solo due che portava gli esami, mi ha detto: senti, mi fai il favore, dice, vieni con noi, così siamo tre, faccio bella figura. E detti l'esame di cucina, perché sapevo, da quel giorno lì ho fatto una scalata, ma con passione, sono andato all'estero, sacrifici. Bisogna prima imparare a lavare le casserole, poi passare all'aiuto capo e partita e conosce bene la partita. Grazie, poi si diventa chef. Grazie Maurizio, grazie Maurizio, il suo esempio è molto esemplificativo. La ringrazio, grazie, grazie, perché sicuramente ci voleva questo intervento. Nella cucina del gran ristorante. Continuiamo con questa canzone Cuoco Pasticcione, devo dire che è molto molto molto divertente. Bene, e c'è un personaggio che i suoi allievi continuano a chiamare dopo anni maestro, e questo è Gualtiero Marchesi. Buongiorno Gualtiero. Ciao Davide, ciao. Io ti voglio fare una domanda con un sms che mi è arrivato, che ho tenuto per te. Penso che chef si nasca, bisogna solo avere l'opportunità e la fortuna di scoprirlo, di esserlo. Tu come la pensi? Chef, vale come dire, sai, la parola chef è una parola importante, io preferisco dire cuoco, perché poi tra l'altro chef lo sai benissimo che la parola francese bisognerebbe dire chef di cucina. Non so, che si nasca con... Non lo so. Beh, tu ne hai avuti tanti di ragazzi giovani. E tu sì, ne ho avuti tanti, ma io forse perché ho trascorso anche una vita lunga di esperienze, e sai che non volevo fare questo mestiere, mi sarebbe piaciuto fare musicista, poi a un certo punto tutto quello che i miei avevano seminato senza volerlo dentro di me, e poi vabbè, la mia vita poi la conosci. Ma quindi tu sostieni che non si nasca, si diventa? Si diventa, assolutamente sì, si diventa. Poi io ultimamente ho sentito una frase che dicevano quando ero ragazzino, dicevano: il mestiere si ruba. E penso che c'è una frase di Einstein che dice: io propendo di più per l'apprendimento che per l'insegnamento. Ecco, credo che bisogna essere curiosi nella vita, essere intelligenti naturalmente, curiosi, e andare a scovare quello che a un certo punto tu forse come dote hai dentro di voler scoprire, insomma. Il mestiere si ruba veramente, perché io ho imparato che nessuno mi ha insegnato niente, diciamo, me l'hanno insegnato nel senso che io ho visto quello che facevano e ho capito quello che dovevo fare, insomma, poi è la nostra natura che va a porta avanti. Bene, rimani con noi, perché quello sì, che hai detto, diciamo che si confà con una persona che è in linea addirittura da Dubai, ed è Ernesto Iaccarino, figlio di Alfonso Iaccarino. Ebbene, Ernesto, lo racconto io brevissimamente, ha iniziato un suo percorso come manager, è arrivato anche a ottimi livelli appunto nella sua professione, poi all'improvviso ha avuto un'illuminazione, è tornato nelle cucine di famiglia. Ernesto, cos'è successo? Ciao, buongiorno a Gualtiero, ma diciamo che la colpa forse è di Gualtiero se mi sono laureato in economia e commercio, perché quando avevo 10 anni entrai nelle sue cucine e lui mi disse: sì, in cucina sì, ma con una laurea. E mi fa piacere che intervengo subito dopo di lui. In realtà io nasco in una famiglia di imprenditori che dal 1890 facciamo attività di ospitalità. Papà ha iniziato l'attività della ristorazione provando a fare un ristorante significativo nel sud dell'Italia. In realtà non ho mai pensato di non fare questo mestiere, ce l'avevo dentro sin da piccino, dalla prima colazione della mattina all'ultimo pensiero della notte, che era mangiare. Per me il cibo è tutto, è la mia vita, e sono uno che ha la fortuna la mattina di svegliarsi con la luce dentro perché sta facendo una cosa che ama. La passione penso che in questo nostro lavoro sia tutto. Se tu ti svegli tutte le mattine con la voglia di apprendere, come diceva Gualtiero, poi ecco, i limiti sono diventano piccoli, diventano sottili, puoi ottenere qualsiasi cosa. Quando tornai nel 1999 in azienda, il mio sogno era di fare un ristorante fuori dai confini del paese. Oggi abbiamo 6 realtà intorno al mondo e siamo veramente contenti. Quindi tu sei a Dubai, sì. Perché state aprendo un ristorante, bravo, a Dubai, se non erro. Stiamo aprendo il nuovo Don Alfonso nello Shangri-La di Dubai. Bene, rimani con noi, poi sì, vediamo se ci vediamo, ma è un personaggio che non discende da una famiglia di ristoratori, almeno non mi consta questo, ma è diventato addirittura talmente importante che ha preso un Nobel, e lo dico Massimo Bottura, perché sennò tu ti sei offeso che nessuno in Italia lo ha ricordato, ecco qua, te lo ricordo. Ecco, lui è un personaggio che è diventato ai vertici della cucina mondiale, però dove hai imparato, Massimo? Ciao a tutti, ciao Davide, ciao. Dove ho imparato? Sì. Ho imparato, non so, guardandomi allo specchio la mattina e una mattina dicendo non credo che posso continuare a fare questo mestiere, e io vendevo dei prodotti petroliferi nell'azienda di famiglia insieme a tutti i miei fratelli, perché mio padre aveva già organizzato tutto, uno doveva diventare ingegnere, uno dottore, uno commercialista, un altro avvocato, a me mi era toccato di diventare avvocato. Però la mattina mi sono reso conto che non ero contento, non stavo bene, e ho cercato di andare a capire, guardando dentro di me, dove andare, e andando in profondità sui miei interessi, io sono andato a scoprire le mie passioni. Le mie passioni erano la musica, l'arte e la cucina, e una settimana dopo ero in un piccolo trattoria campazzo di Nonantola e facevo della cucina tradizionale insieme alla Lidia Cristoni, che è una grande rasdora di Nonantola. Quindi io credo che cuochi si diventi, non si nasce. Un po' di talento lo devi avere dentro, ma il 90% del nostro lavoro è duro lavoro ogni giorno. Senti, ma prima tu hai avuto un maestro che No, ma io sentivo, sì, un maestro, io se penso ai miei maestri, penso alla Lidia Cristoni e Cogni. Questi sono le due persone che più mi hanno influenzato. Puoi pensare che nella vita hai la possibilità di vivere esperienze insieme a Ducas, a Ferran Adrià, e dopo diventa tutto più facile, ti insegnano tante cose. E pensare che adesso in Francescana c'è il secondo di David Chang di Momofuku, c'è il pasticcere di Grand Nashat di Alinea, c'è un comì di Andoni, o che Ducas ti mandi un suo cuoco perché deve aprire un ristorante mediterraneo a Londra, significa che insomma sei diventato qualcosa maestro. L'abbiamo fatto. Ti sei trasformato in maestro tu, tra l'altro, in questo ma momento. Ma che maestro? Maestro, lasciamo, maestro ce n'è uno, Gualtiero Marchese. No, dicevo, docente, chiama così, perché se vengono dalle tue cucine vuol dire che sicuramente vengono. Noi siamo dei cuochi. Siamo dei cuochi coi piedi per terra, e ti dico adesso io e altri tre siamo in cucina, il ristorante è chiuso, ma stiamo provando una nuova attrezzatura che ci permetterà di cuocere in un modo totalmente diverso, quindi stiamo testando queste cose. Il lavoro dura ogni giorno, quando gli altri si divertono, noi siamo in cucina, questa è la cosa, è un messaggio fondamentale. Sono cose importantissime da sapere, perché quelli che passano in televisione non sono quelli. E quindi bisogna dirlo, cioè la cucina è amore, è passione, è dedizione, è gioia di vivere, entrare dentro ed essere contenti di essere lì, perché è talmente un mestiere, talmente di sacrificio, che se non lo ami diventa una cosa veramente straziante. Bene, grazie a Massimo Bottura. Sentiamo Antonio da Roma, radioascoltatore. Prego Antonio. Posso? Prego, parli velocemente per cortesia. Buongiorno, sì, buongiorno Davide. Antonio Surlo, ex chef del Relly Jardin di Roma negli anni 80 e 90. Salve Surlo, salve. Salve, ben risentito. Questa mattina è straordinario, tutti questi grandi personaggi, un racconto della storia della cucina italiana per certi versi. Io direi anche che sono passati tempi, tanti anni, una diversificazione proprio lavorativa, è cambiato tutto anche dal punto di vista mediatico. Devo rilevare, qui a Roma noi abbiamo una scuola di cucina, a tavola con lo chef, come l'Alma, in cui facciamo ormai tutto privato. La scuola privata si è sostituita alla scuola pubblica, in quanto la scuola alberghiera purtroppo non opera. Il guaio grande è che questi ragazzi che poi escono dai corsi di cucina, purtroppo, ahimè, pensano già di essere chef e vengono assorbiti. Quindi il futuro della ristorazione italiana è anche nelle loro mani, ma vedo che c'è molto avventurismo. Io ho sentito i colleghi, straordinario, giustamente, determinazione, convinzione, sacrificio, sono tutte parole che oggi forse vengono un po' meno. Io lavoro in campagna in questo momento, ho fatto una scelta di vita, sono in un ristorante alla Tacita in Sabina e svolgo un'attività in cui tutti i nostri prodotti vengono utilizzati in cucina. La cosa fondamentale da dire è che anche questa parte centrale dell'Italia, la Roma che è conosciuta, ha un grande movimento oggi dal punto di vista gastronomico. Senta, Antonio, io lo devo interrompere perché devo passare la linea alla regia, mi spiace molto, però il suo messaggio l'abbiamo recepito, appunto, di scuole private che sostituiscono la formazione, e purtroppo è così, ma io penso che, diciamo, che col boom di questo boom, questo interesse che c'è sul cibo, qualcosa si possa fare anche sulla scuola pubblica. Pasticcione ancora, ma il riferimento non è ovviamente ai nostri ospiti. Ebbene, abbiamo con noi uno chef che fra pochi giorni, diciamo, aprirà un ristorante a Torino, lo storico del cambio, appunto, di Torino, che per tanti anni ha lavorato con Carlo Cracco, e quindi ora va su questa avventura, diciamo, in solitudine. Io volevo chiedere a Matteo Baronetto. Buongiorno Matteo. Buongiorno a tutti. Ecco, tu hai passato tantissimi anni con Carlo Cracco e credo che, io non so prima quali erano le tue esperienze, ma tu praticamente hai convissuto con lui, diciamo, convissuto, quindi sei riuscito a strappare un po' tutte le sue conoscenze, appunto, da questo chef che ormai è diventato molto, ma molto celebre. Beh, certo, sicuramente io ho avuto la fortuna di conoscere Carlo Cracco da Gualtiero Mattesi. Ti faccio richiamare perché la tua linea è disturbata, scusami, ti faccio richiamare. Ma abbiamo un altro maestro con noi, che è Sergio May del Four Seasons di Milano. Ebbene, Sergio, credo che nelle sue cucine siano passate decine e decine di chef che troviamo in giro per il mondo. E allora io volevo chiedere a Sergio, appunto, alcuni sono diventati anche molto, molto famosi, volevo chiedere a Sergio se appena entrano nelle sue cucine, perché molti entreranno che ancora sono abbastanza digiuni della grande scuola, appunto, di cucina, se si intravedono le capacità, il talento. Buongiorno Sergio. Sì, buongiorno Davide, ciao. Ma sicuramente, come dici, bisogna, appunto, se si vede il talento, la predisposizione, e lo scopri e vedi questi ragazzi che vengono, appunto, in cucina, li devi un attimino dare la possibilità a seguirli e farli innamorare di questo lavoro qua, no? Sostenere un attimo, appunto, per dargli questa forza, che sicuramente la passione ce la devono avere loro, la predisposizione, tutto quanto, queste cose qui, e poi da lì si vede un po'. Senti, ma quando vedi che uno è proprio negato, cioè vedi che non c'ha non il talento, non ha le capacità di base, devi cercare di essere sincero, come se sincero a sostenere gli altri, in questo caso qua glielo devi far capire con molta serenità, glielo dici che forse non è portato per questo mestiere. D'altra parte non... Ti è capitato spesso? Ma devo dire che non spesso, pochissimo, qualche volta, ma anche adesso i ragazzi di oggi che tanto si dice che non ci sono più i cuochi di una volta, io magari avendo una certa età così e compagnia, sono di tre generazioni, ho avuto la fortuna di lavorare negli anni 70 e poi più avanti ancora adesso, ci sono ancora dei ragazzi molto bravi che hanno talento e che hanno sicuramente che diventeranno dei bravi cuochi a seguire e molto probabilmente anche faranno lo chef, che è una cosa ben diversa, come dice Gualtiero. Certo. Sentiamo Silvana da Pordenone. Buongiorno Silvana. Buongiorno, beh, dopo tutti questi grandi nomi veramente io sono un'operaia del cibo. Bene, bella definizione, bella definizione. Grazie, niente, io mi ricorderò sempre lo chef Corelli che ci ha detto: ragazze, io ho cucinato di tutto, anche la proboscide di un elefante, ma le tagliatelle che fa la mia mamma non me le dimenticherò mai. E pertanto noi siamo un piccolo gruppo, lady and chef, donne in cucina, che cerchiamo di non far perdere queste cose che proprio si nasce, no? E secondo me un grande chef nasce perché comunque qualcuno, qualcosa in casa l'ha mosso ad avvicinarsi a questo grande, grande fatica di stare in cucina. Bene, Silvana, la ringrazio del suo intervento, perché mancava un intervento femminile, e devo dire che col suo intervento ho capito di aver sbagliato, di non aver messo una chef donna. Bene, provvederò la prossima volta. Ma torniamo a Matteo Baronetto, che abbiamo ripescato. Matteo, ti stavo dicendo, tu sei stato tanti anni vicino a Carlo Cracco. Ecco, ora praticamente quanto di tuo utilizzerai quell'esperienza? Cioè, quanto ci metterai di tuo? Perché ora, diciamo, puoi fare la cucina che vuoi. Beh, sicuramente la cosa, 20 anni di lavoro vicino a Carlo Cracco sono importanti, no? Ed è stato un periodo importantissimo. Qui al Ristorante del Cambio a Torino dovrò intanto rispettare la tradizione torinese e piemontese, e poi inserire anche quello che è stato il mio passato, no? Perché come quasi un tributo anche a quello che ho fatto, e poi solo lavorando in cucina si può migliorare e possono nascere nuove cose. Ecco, il duro lavoro fa sì che si possano vedere idee nuove. Senti, Carlo è un qualche volta è insegnante, è stato insegnante? Sul posto di lavoro sempre, tutti i giorni, non solo in cucina, anche con il suo carattere, con il carattere inteso come forza di personalità, sicuramente ogni giorno potevi capire qualcosa di importante, nel bene e nel male. Ecco, la tua cucina al cambio, hai detto bisogna rispettare la tradizione, quindi sicuramente, come dire, non dico che ricominci da capo, però praticamente, cioè, i piatti saranno tutti nuovi, quindi sarà un'innovazione sul tuo menù. Sì, un'innovazione, ma poi è una tappa importantissima per me, perché vuol dire ritornare io da piemontese a rifare, a cercare di rifare bene anche la cucina tradizionale, quindi vuol dire rimettersi a studiare, ed è una cosa che un cuoco non deve mai dimenticare, no? Bene, magari torni a casa, insomma, torni all'insegnamento anche di casa probabilmente. Beh, sì, di casa sicuramente, anche se io, e questo è il motivo forse perché sono diventato cuoco, in casa mia personale non ho mai mangiato benissimo. Va bene. Quindi fa un po' ridere questa cosa, no? Però, È servito da stimolo probabilmente. Esatto. Anch'io forse di bere il vino di mio nonno, che sapeva sempre di aceto, ho pensato poi di cercare di capire il vino un po' più in profondità. Sentiamo Lello da Sassari, un radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno, salve Davide, buona giornata. Prego. Dunque io vorrei intervenire, ho sentito, intanto saluto i grandi chef e vari ascoltatori. Io sono uno chef executive che si è creato dal nulla, non è vero che basta solo il talento, ci vuole anche una fortissima passione e motivazione. Io sono nato come lavapiatti, ho proseguito e oggi, per farla breve, mi trovo a 55 anni a fare lo chef executive con un diploma di sommelier. Sono un F&B manager, sono un supervisor dell'economato, gestore delle risorse umane. Bene. Tutto passato nei 35 anni partendo dalla gavetta. Quindi fa il general manager, insomma, di tutto. Lello, guarda, la interrompo perché voglio dare anche la parola, ho 30 secondi, visto che abbiamo parlato della Sardegna, a Siracusa, a Ettore da Siracusa, così rispettiamo le isole. Ettore, velocissimo. Ciao, sì, sono il padre di executive chef e anche F&B manager, che lavora in Vietnam all'Hyatt di Da Nang. È partito da Siracusa tagliando insalate, e poi ha fatto la scuola Achille Grandi a Milano, e poi da cuoco, sempre parliamo, sottolineiamo cuoco, si passa poi a vice executive, a vice chef e poi su chef. Bene, poi bene, abbiamo sentito due storie isolane di due chef che sono partiti dalla gavetta e questo ci fa molto piacere. Una informazione che vi darò: i segreti dal 20 marzo il Sole 24 Ore vara la collana I Segreti dei Grandi Chef, sono 12 volumi, il primo volume sarà dei fratelli Cerea di Vittorio, appunto, e grandi chef anche questi, e quindi dal 20 marzo potrete acquistare questi libri. Abbiamo chiuso questo viaggio, io ringrazio Giorgio De Luca, Anita Panizza che hanno collaborato con me e in regia Peter Bescapè. Alla prossima settimana, un caro saluto da Davide Paolini.